quando si beve caffè. Problema. Eccoci di nuovo in onda. C'era un ciao a piccolo tutti problema. E tutte. Ciao a tutti. Questa era la voce del mio compare di tanto tempo fa, che purtroppo adesso sta a Monaco. Quindi gli auguro una buona birra. E eccoci ritrovati a Caffè Doppio 17.1. E queste sono le 87.9 FM. Siamo alla nuova puntata con degli ospiti speciali oggi in trasmissione, che vorrei presentare attraverso una piccola canzone in acustico. Che adesso con molta calma. Ci sono, ci sono. Perfetto. Ah, noi siamo i Noi Heroes to Die For. Iniziamo con Seven Years in acustico. It's so sad to think about what happened last night. Situation fucked up all on what we've done. It's so sad to think about that I never wanted dead and blood for 7 years, my friend. I can't sleep now, I'll say goodbye. I can't stand without saying goodbye. The situation we came from is done, babe. Don't wanna hear lie again. It's so sad to think about what happened last night. Situation fucked up all on what we've done. No, I never wanted to be what I've become now. Since 7 years, my friend, I can't wait, I wanna rise you up, babe. I can't stand without saying goodbye. The situation we came from is done. Don't wanna hear you lie again. Saying goodbye. The situation we came from is done. Don't wanna hear lie again. Yeah. Ed eccoli qua, erano i No Heroes to Die For, anzi il cantante barra chitarrista dei No Heroes to Die For. Qua in studio con me ci sono... Ciao, io sono Salvatore, cantante dei No Heroes to Die For. E con me c'è anche Alessandro, bassista. Ok, quindi non è tutta la formazione. Vorrei introdurre un pochettino questa band parlando, iniziando dalla formazione, per capire un attimino chi siete, da dove venite, insomma. Chi siamo? Chi siete? Che domanda. Il gruppo, cioè diciamo di base, nasce tutto da me e lui, che ci siamo incrociati a un concerto, ovviamente il mio ex gruppo. Abbiamo deciso di mettere per l'appunto su un gruppo, diciamo, rock, sullo stile molto americano. Diciamo, abbiamo deciso di fare un gruppo che rispecchiasse quello che ascoltavamo comunque in quel periodo, e quindi abbiamo iniziato la ricerca praticamente di componenti, che si è conclusa con Luca Marini, che salutiamo, alle batterie, e Federico Pancotto praticamente alla seconda chitarra. E quindi niente, abbiamo iniziato a produrre musica, cioè abbiamo iniziato subito con pezzi nostri, riarrangiando quelli, diciamo, già di Salvatore e comunque altre idee, e siamo riusciti praticamente a concludere un demo autoprodotto, All For One, che sta uscendo, diciamo, adesso. E quindi veramente niente, ed eccoci qua, insomma. Quindi hai già parlato te delle band a cui ti ispiri. Volevo sapere un attimino se c'è qualche influenza particolare, qualche cosa che voi volete esprimere oltre a rock, qualcosa del genere, o c'è qualcosa di particolare nei vostri pezzi, di strano? Ma diciamo che il discorso è che noi purtroppo abbiamo talmente tante influenze che cioè, qualsiasi cosa praticamente può confluire, diciamo, nei pezzi che produciamo, perché siamo un gruppo molto aperto, cioè fondamentalmente ascoltiamo tutti molto metal, ascoltiamo pop, io addirittura hip hop, quindi abbiamo tantissime contaminazioni. Certo, i gruppi che penso rispecchino maggiormente in questo momento forse la nostra attitudine sono magari gruppi americani come Nickelback, Alter Bridge, cioè un certo tipo di sound comunque, sì, rock molto distorto. Sì, perfetto. Quindi io vorrei passare al primo brano della vostra demo. Yes, yes, primo brano autoprodotto da noi, si chiama Something at Night. Che non parte, naturalmente. Mi sembra una cosa giustissima. Era tutto a tempo. È una cosa bellissima. Un attimo, e nel frattempo io vi passo la parola e continuate a parlare della vostra band. Beh, nel frattempo che parte questo disco, insomma, introduciamo quello che è il nostro sound, un rock americano, rock appunto anche con influenze abbastanza acustiche. Quale uso? Questo? No, perché c'ho due microfoni. E niente, praticamente è stato realizzato tutto da noi, suonato, registrato, mixato e prodotto tutto interamente da noi. E eccola qui, Something at Night. Lo trovate comunque sulle pagine Facebook, la pagina Facebook No Heroes to Die For, Reverbnation, Last FM, SoundCloud, and gone. Perfetto. Allora, questo è il primo brano della demo dei No Heroes to Die For, che si intitola Something at Night. Che palle oggi, anche quelle domande, ma sto pensando a me. E questo era il primo brano dei No Heroes to Die For. E vabbè, con il cielo che tuona in questo momento, speriamo di darvi almeno buone sensazioni da casa. In 87.9 FM, questi sono le Caffè Doppio, Radio Onda Rossa, 17:11 minuti, in compagnia del cantante e del bassista di questa nuova band emergente. Volevo parlare un pochettino dei live. Avete detto che comunque siete siete nati da poco, quindi avete fatto pochi live, poche esperienze live ancora. Però sul sito o sul MySpace, che adesso vorremmo dare i contatti di questa band per riuscire a trovarli, sul MySpace potrete trovare comunque tutti i loro concerti, che si terrà il prossimo, ad esempio? Prossimo 27 aprile. Abbiamo un'apertura in un locale, però ancora, diciamo, è da definire. Ok, perfetto. E naturalmente qua oggi ci sono mille problemi in questa piccola settimana di sole splendente, che oggi diluvia, quindi i computer di Radio Onda Rossa hanno deciso di non funzionare. Peccato per noi, però vorrei dare la parola un attimino al cantante, e se vuoi farci un altro pezzo in acustico. Come no, assolutamente sì. Sarebbe assolutamente sì. Allora, ricordiamo appunto le pagine. Noi ci trovate su internet ovunque, basta che digitate No Heroes to Die For. Siamo appunto su Facebook, su YouTube, c'è anche il canale YouTube con i video, potete insomma trovarci lì. E adesso seguiremo un altro brano che però non trovate online. Quindi un inedito, no. Esattamente. Eseguiremo Young Man's Death. Aspettate che mi acchitto. Ok, here we go. Ashes to ashes, dust to dust. Plead, Mother of Mercy, pray for us. The book is closed, a tale is done, with the page I never read, with a name I never call. The light is not enough to bring him back to life. The touch is not enough to be burned twice. Peace for the young man's death. I'm not the chosen one. Peace for the young man's death. We are so far from grace. Yeah. Life gave me his back, writing no more. Love turned calm, easy. Life is a whole. The book is closed, the tale is done, with the page I never read, with a name I never call. The light is not enough to bring him back to life. The touch is not enough to be burned twice. Peace for the young man's death. I'm not the chosen one. Peace for the young man's death. We are so far from great. For the young man's death, I'm not have the chosen one. Peace for the young men's death. We are so far from grave. Yeah, fuck yeah. Ed ecco quello che possa rendere in acustico. Rende, fidatevi, rende. Questo è un pezzo inedito, insomma. Come si chiamava? Young Man Death, dei No Heroes to Die For. Questo quando verrà pubblicato? Lo sapete già? Avete già... Sì, spero quando... Più presto, quando riusciremo. Abbiamo idea di farlo cantare, insomma, al collega nostro, un grande amico, pazzo. Sì, c'è un ragazzo che lo canta sempre con noi dal vivo. Eric Scutti, il cantante dei Cheope e di Figure of Six, che tra l'altro salutiamo se è all'ascolto. Ma che sta all'ascolto, per me. Quindi in questo pezzo non canterai tu, ma canterai il cantante dei Cheope. No, spostecchiamo, come no? 50-50. Benissimo. Adesso vorrei farvi una domanda che però è un crucio per tutti i musicisti. Il vostro rapporto un pochettino con le case discografiche, ne avete una, le state in cerca oppure... Siamo in cerca di una etichetta, di una casa discografica. Ma loro non sono in cerca di noi. Esattamente. O ecco, meglio, ancora non sanno l'esistenza di... Tanto il microfono che si alza, sì, si abbassa da solo, è posseduto. No, vabbè, in generale comunque è veramente un crucio per tutti i musicisti, la casa discografica piuttosto che no. C'è anche persone che vogliono autoprodursi perché non credono più nel mondo delle case discografiche, delle etichette, quindi vogliono avere una casa discografica indipendente. E voi invece come vi rapportate in questo mondo? Noi innanzitutto, la prima cosa, noi abbiamo deciso di fare... questo progetto, che è appunto un progetto di musica rock, che in Italia è estremamente difficile, per non dire impossibile, lavorare con questo tipo di musica. Nonostante questo, consapevoli di tutte le difficoltà, anche diciamo difficoltà non piccole, abbiamo deciso di fare questo gruppo proprio perché è la musica che ci piace. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché ci va di farlo, perché ci piace farlo e perché è una cosa che noi amiamo e ci abbiamo dentro, e quindi la faremo a prescindere dall'etichetta e dalla casa discografica. Quindi è una strada che voi fate a parte il successo, quello è a una cosa che viene... assolutamente sì, perché sì. Proprio già il demo stesso è totalmente autoprodotto. Cioè non siamo nemmeno entrati in studio, abbiamo curato ogni tipo di arrangiamento. E secondo me questo è eccezionale per un gruppo comunque emergente, cioè già il basarsi esclusivamente sulle proprie forze, soprattutto in un momento in cui alla fine anche la casa discografica stessa non ti pone determinate garanzie. Sì. Quindi io personalmente sono più per l'autoproduzione. Questo è un... Lo pensano in tanti, l'autoproduzione ormai, poi con i mezzi che ci sono adesso, è veramente importante. Forse una band che si autoproduce e fa un prodotto, io lo chiamo prodotto ma non è un prodotto, che fa della musica di buona qualità e autoproducendosi, è un grande traguardo secondo me, anche perché la casa discografica molte volte mette le mani in pezzi che forse non dovrebbe mettere... Quindi io sono abbastanza contro le case discografiche, però questo è un mio personale progetto. Sì, sì. Ci sono tanti musicisti invece che puntano ad avere una casa discografica. Insomma, è la loro strada, è quello che vogliono fare. E a parte la casa discografica, il mondo del musicista è quello che voi fate nella vita, volete fare nella vita? Noi su questo siamo, diciamo, in casa siamo divisi, cioè nel senso... due quarti del gruppo siamo appunto dei musicisti di mestiere. La cosa è un lavoro. Poi abbiamo difficile. Un barman. Tra l'altro salutiamo. Salutiamo il barman. Uno dei migliori barman. E niente, è un lavoro molto difficile. Però appunto almeno parlo a titolo personale, è quello che mi piace fare e lo faccio sempre volentieri, chiaramente. Certo. Allora io andrei avanti ascoltando il secondo brano del demo. Sì. Secondo brano del demo è All For One, è nata dall'idea appunto del famoso barman di Poggio Mirtillo, che adesso ci starà bestemmiando. All for One, here we go. Scorreggione sempre. E 17-24 minuti, questo era il secondo brano, All for One. All for One. Da che cosa deriva questo nome? All for One è un po', diciamo, quello che dicevamo prima. Diciamo quello che dicevamo prima, perfetto. Dicevamo che dicevamo. Esattamente. Praticamente è questa, diciamo, questa scommessa che abbiamo deciso di fare, investendo il nostro tempo e le nostre risorse su questo progetto. Quindi All for One un po' rappresenta questo, ecco. E naturalmente da Monaco, dove sta il mio collega che in questo momento sarà un adesso lo salutiamo in questo momento. Ciao Tameto, ti salutiamo e mi raccomando, ubriacati sulle note di No Heroes to Die For, mi sembra giusto. Lui starà con una bella birra in mano in questo momento e starà brindando alla vostra salute. Infatti mi ha mandato un messaggio scrivendo mi salutameli tanto. E naturalmente vorrei andare avanti chiedendovi anche se avete in mente altri tipi di pubblicità diverse a parte internet, o che modo avete per portare avanti il vostro progetto musicale. Ma guarda, noi ultimamente stiamo cercando di regalare più CD possibili, cioè paradossalmente regalare tutto, mettere tutto a gratis, in modo che così, cioè, la gente ne aiutiamo principalmente la diffusione. Esattamente, la diffusione. Cioè, gli ultimi concerti abbiamo proprio regalato dischi, cioè della serie masterizzate, copiate, passateveli, scaricate. Cioè, l'importante per l'appunto è proprio diffondere. Intanto state spaccando, sto giocando. È bellissimo, il microfono va, viene, fa come gli pare, scappa, va, non vuole stare dentro il porta microfono. Faccio schifo il microfono. Comunque, stavi dicendo appunto che l'importante per l'appunto è la diffusione. Cioè, noi siamo per tornare indietro di 10 anni, dove l'amico ti arrivava con la cassetta, capito, masterizzata, dicevo, senti sto gruppo che fico. Quindi per questo noi cerchiamo... noi esortiamo tutti a masterizzare. Sì, masterizzate, spammate. Cioè, fate... masterizzatevelo, scaricatevelo. Esattamente, sì. Anche perché ci sono anche dei link dove trovarlo gratis. Sì, su internet, YouTube. Su YouTube, ok. Cioè, da su Urban Nation, te lo mettiamo anche nella cassetta della posta. Allora, insomma, se ci contattate, mandateci un messaggio che magari ve lo portiamo noi direttamente nella cassetta della posta e ve lo imbucheremo. Un giorno che passi di lì, glielo imbuchi e va bene così. No, vabbè, comunque questo discorso deriva anche dal fatto che mi dicevi che siete autoprodotti. Ma questo è proprio un discorso di attitudine. Ah. Cioè, questa è un'attitudine, nel senso che se tu comunque sei un artista, principalmente tendi a far ascoltare a terzi la tua musica. Poi il discorso praticamente economico, è logico che essendo un progetto musicale, comunque un'attività che ti porta a un determinato tipo di investimenti, è logico che, cioè, nessuno comunque campa d'aria. Cioè, però almeno per quanto riguarda l'inizio, per la promozione chiaramente adesso è tutta il più possibile, quindi noi regaliamo proprio i CD durante live e puntiamo su quelli, come penso ormai il 90% delle band. Quindi puntate più sui live. Sì, molto più dal vivo. Ma anche per un futuro voi puntate più sui live. Ma che noi per un futuro... Per il futuro è, diciamo che il musicista ormai campa solo sui live e su quei pochi soldi dei diritti d'autore. Quindi sì, ormai i dischi non li compra più nessuno, più che altro. Io in primis... per cui in questo momento la SIAE potrebbe venire qua in studio, o la SWAT entra a trovare in questo momento. Cascano bene, se finalmente sì, troveremo cioè, vediamo fisicamente chi è la SIAE, chi arriva. Basta che non arriva Celentano, poi per il resto, cioè, tenetevi tutti. E vabbè, comunque tu mi dicevi prima, no, del fatto che vi siete autoprodotti questo CD e dove l'avete fatto? Al Box Populi, di sempre Federico Pancotto. Ricordiamo bene i nomi della formazione dei musicisti? Sì. Allora, vai, inizia tu, va. Senta a me che non mi presenta mai nessuno. Di la verità, non te li ricordi. Assolutamente non sai, no. Noi siamo Salvatore Ercolano, chitarra voce, Alessandro Esposito, basso, Luca Marini, batteria e Federico Pancotto, chitarra seconda voce. E naturalmente troverete tutti i contatti su Facebook per farvi mandare il CD a casa. Esattamente. Nella posta... farvi portare il CD a casa. Certo. E beh, la diffusione è anche quello. No, vabbè, ma a parte quello, anche a livello di discografia, non soltanto di musica, ma anche a livello di immagini, editing, video. Avete in procinto di fare qualche video musicale o una foto di copertina? Avete già progetti di questo di questo modo? Ma per quanto riguarda i photoshot, si dice così, no, ormai, photoshot. Sì. Yeah. Abbiamo fatto una photo session con Emanuele Donazza, un ottimo fotografo, insomma, le foto le trovate sempre sulle nostre pagine. Diciamo, adesso è più un discorso, cioè noi mireremo a prendere più date possibili per suonare dal vivo, per accaparrarci più fan, sì, possibile. Esatto. Poi per quanto riguarda il discorso comunque video, penso se ne parlerà sicuramente in futuro, cioè quando avremo magari un disco da produrre e magari che per l'appunto lo produrremo magari mediante un video musicale, cioè al momento si punta per più alla diffusione e a farci ascoltare da più persone possibili. Anche perché ricordiamo che questo che state ascoltando, anche se è una qualità ottima, è comunque una demo. Sono solo 4 brani e tra un pochettino vorremmo ascoltare vedere il disco, sì, ascoltare un bel già abbiamo disco. Dei bei pezzi belli pronti, sì, impacchettati, sì, abbiamo buone novità in cantiere. Yes, yes. E allora non tra molto vorremmo sentire parlare di nuovo dei No Heroes to Die For e magari invitarle di nuovo in trasmissione per poter avere l'album completo stavolta. Assolutamente sì, a disposizione, ben volentieri. Allora passerei al terzo brano di questa, sì, demo. Per il terzo brano è quello che si discosta un pochettino rispetto agli altri, cioè delle influenze anche un po' più jazzy. Ma soprattutto per sottolineare proprio il fatto che a noi piace, tutto. Piace proprio tutto. La musica è tutta bella, ragazzi. Un po' come il maiale, sì, non si butta via, no, niente. Esattamente, esattamente. La musica è tutta bella. Oddio, io qualcosa butterei. Tipo, cioè, cosa butteresti? Bieber, Justin, Eccola sia, Aia, ecco la SWAT che torna dentro. E vabbè, a parte questi nomi che volano qua. Marco Kart, vabbè, Così si è regalato. Allora, dai, passiamo al terzo brano di questa demo che si intitola Easy Come, Easy Go. E se vi piacciono i No Heroes to Die For, fateci uno squillo allo 0649 1750. You heard me. questo era il terzo brano della demo dei No Heroes to Die For. Un'altra cosa che vi vorrei chiedere è: come componete voi? Com'è che esce tutta questa musicalità, tutte le note, come escono? Allora, non c'è una regola chiaramente nella composizione. Innanzitutto noi facciamo musica che è quella proprio, passatemi il termine, quella di panza, quella che ci viene diretta, spontanea. Infatti, spontaneità. Sì, sì, infatti credo che i brani lo siano abbastanza come orecchiabilità, come anche come musica diretta. E per quanto riguarda le composizioni, beh, di solito compongo io linea e per quanto riguarda l'armonia e le linee melodiche e i testi ci penso io, poi chiaramente riarrangiamo tutto insieme, rivisitiamo, si taglia, si copia, si incolla, si butta, si fa, si litiga, si litiga soprattutto. Vabbè, mi dicevate prima fuori onda dei piccoli aneddoti live che vorrei farvi raccontare qua, perché sono veramente particolari. Beh, innanzitutto bisogna dire che nei live si salta troppo, no Alessandro? E quindi prego a te la parola. E quindi può succedere che ti ritrovi praticamente con il basso in mano, chiedendoti proprio perché, per come e per quando. Senza cinta rotta. Con i security lock. Con tutti i security, diciamo, è proprio rimasto palesemente in mano. E poi altri... E poi può succedere di riconoscere nel pubblico, cioè, scambi di fantasmi. Fantasmi che passano lì davanti, sì, a te. Sì, sì. Vabbè, racconta, ormai l'abbiamo detta. Niente, l'ultima data, insomma, ho flashato una persona per un'altra, ho fatto oh! Da sopra al palco, assolutamente. E sta cosa non si fa. No, vabbè, comunque ci dicono sul sito di Caffè Doppio, ci chiedono se voi portate CD non solo in posta, cioè attraverso la casella delle lettere, ma se li portate anche in casa e magari nudi. Beh, chiedono... dipende lì, non è più chiaramente presentazione gratuita. Guarda, io non ho problemi. Qui paga. Cioè, Alessandro non ha problemi in questo. Sì, se è in zona. Vabbè, allora se è in zona chiamatelo. Però insomma, diciamo. Siamo nudi, cioè, Però vi spogliate solo nell'androne, perché prima se no è atti osceni in luogo pubblico. Nell'androne del palazzo, allora poi può fare quello che gli pare. Quindi almeno apritegli il portone, no? E vabbè, un altro saluto da altri ascoltatori in questo momento da Caffè Doppio. E insomma, i vostri pezzi sembrano che... Sì, arrivano parecchi squilli anonimi, telefonate minatorie. Infatti, telefonate minatorie. Tornate no. A casa, cose di questo tipo. No, ringraziamo tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa 87.9 FM, li ringraziamo tutti. E ringraziamo anche questo squilletto che ci sta pervadendo la sala, non si sa che cosa sia, però è uno squilletto. È una bomba, quindi... È una bomba. È la schiave. Ecco, un altro squillo. È uno squilletto. Grazie ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori. No Heroes to Die For, seguiteci. Come vi chiamate, Marco Cart? No Heroes to Die For. Ah, ok. Allora passerei al quarto brano della vostra demo, per poi chiudere in bellezza con un bel brano acustico. Assolutamente sì. Il quarto brano è quello più quello più sentito. Quello più sentito nel cuore. 888. E con molto garbo spaccate casa in questo momento. Here we go, I hate to feel my heart break. There's no gravity, the answer's negative. Here I am now with all the things we've done. It's more than me, it's more than you. So we send our thanks to you. It's what I feel. 888, yeah. Step to slow down. Mm-hmm. Questo era, questo era il pezzo più sentito, vabbè, insomma. Ho scoperto a fine trasmissione che se faccio così veloce non fa casino, vedi? Oh, tecniche di microfonaggio. Vabbè, dicevate che questo è il pezzo più sentito. Alcuni dei radioascoltatori mi chiedevano perché è il più sentito. Perché, perché fondamentalmente siamo tutti dei metallari ripuliti e ripuliti molto metallari ripuliti, questo è un termine che mi rivenderò sicuramente. Ma ripuliti male, cioè nel senso che comunque è un pezzo molto suonato che per l'appunto rispecchia la passione che ha questo gruppo per la musica comunque estrema, la musica metal, che... decisamente è quello da cui si evince quello che ci piace, quello che ci abbiamo dentro. Cioè il nostro obiettivo più che altro è suonare al Rock and Ring d'estate, dice grazie Arca. Ah, puntate alto, Rock and Ring. Sì, sì, sì. Beh, certo. Niente etichette, però Rock and Ring. Rock and Ring. Beh, magari chi lo sa che magari tra un paio d'anni non sarete su quel palco. Ma magari a spaccare tutto. Firmiamo subito, no? Ma se non avete etichetta, avete detto con chi firmate? Roadrunner Records. Ah, ecco. Solo. Solo o Metal Blade proprio. Beh, insomma, vi ispirate molto al metal e si sente anche dalle etichette che insomma portando qua e... cioè a noi piace tutto, chiaramente a noi ci piace la musica tutta, il rock, il pop, però c'è questa credenza popolare però che chiunque ascolti metal non sa suonare il quattro quarti, non sa suonare l'armonia, non c'è cioè, comunque la concezione del metallaro chiuso che fa casino e basta, fa non è così e basta, invece come... non è così, perché noi come politica di gruppo, cioè anzi siamo più convinti proprio che quasi diciamo i migliori musicisti provengano comunque da quel tipo di musica, perché è un tipo di musica che è pesante sia a livello comunque esecutivo che a livello d'ascolto. Che sì. Quindi noi siamo tutti innamorati, cioè resteremo proprio dei metallari, cioè a vita. Metallari a vita. Anche però... facendo altro, cioè comunque, perché poi quello che ci piace è il rock e tutto. Certo, chiaramente sottolineiamo che questo è un progetto rock, non è un progetto metal, sì, ovviamente. Certo. Però no, volevamo sottolineare proprio il fatto che abbiamo più influenze e che cioè, ci ispiriamo un po' a tutto, da rock al pop, cioè, quindi, senza nessuna differenziazione. Con la vostra demo e con le vostre registrazioni stiamo dimostrando che un batterista, per esempio, che ascolta metal, non debba per forza essere un trrrr, no, è no, una doppia cassa continua. Il nostro batterista suona anche in questo momento anche con i Caledon, che suonano power metal. Appunto. Eppure è un ottimo batterista rock, quindi... A proposito, questo volevo chiedervi, avete altri progetti paralleli? Cioè nella vostra band ci sono progetti paralleli oppure avete progetti che avete abbandonato nel corso della vostra carriera? Beh, progetti abbandonati penso ce ne siano tanti, quindi non manco fare le liste. Sì, no, senza liste. Di altre situazioni, se intendi roba originale, almeno per me, io che sono il cantante, c'ho solo questo. Quindi questo è il... Questo è il mio gruppo, è quello questo che è mi rappresenta gruppo. Di più, sì, chiaramente sì. E quindi, vabbè, siete tutti contenti di questa nuova formazione, di questo portare fuori nuova musica? Insomma, siamo tutti contenti di portare musica emergente sì, qua alla radio? Sto anche collaborando con i Licaio, un altro gruppo di Roma, tra l'altro, che saluto. E poi niente, insomma... E allora andrei avanti con un pezzettino acustico. In questo momento sentite alla mo' di Shining un microfono che... Ecco, dai. Vai. E con questa con questa introduzione alla Shining vorrei passare la parola alla chitarra e alla voce. Eccoci qua. Due secondi di agitation. Allora, il prossimo pezzo si chiama Same Old End. E ancora deve uscire sulle pagine online, lo troverete presto. Intanto vi presentiamo questa anteprima acustica. It's okay for the people, it's not okay for the God. Truly he's got the answer, as a preacher holds a key. When the needle become a painless, he refused to bow to jail. When the lion roars in darkness, he refused to try. And it's the same old fight every day, and it's the same old land. It's the same old fight every day. It's the same old land. Yeah, someone has to die. Yeah. It's okay for the people, it's not okay for the God. Truly he's got the answer, as a preacher holds a key. Needle become a painless, he refused to bow to jail. When the lion roars in darkness, he refused to try. And it's the same old fight every day, and it's the same old land. It's the same old fight every day. It's the same old land. Someone has to die. Every day, and it's the same old land. It's the same old fight every day. It's the same old land. Yeah, someone has to die. Yeah, fuck yeah. E caso strano della vita, questo è il brano con cui vi ho conosciuto. Cioè, casualmente, ascoltati in un box auto, appunto, allestito a sala prove, vi ho ascoltato fare questo brano in acustico anche quel giorno. E mi è rimasto impresso nella testa, è per quello che ho avuto un sobbalzo quando ho sentito questo suono. E niente, io vorrei ricordare, dato che siamo arrivati praticamente in conclusione a questa trasmissione, vorrei ricordare pagina per pagina le vostre, i vostri link per scaricare o per seguirvi. Sì, sì, sì, per scaricare e seguirci. Allora, su Facebook basta che digitate No Heroes to Die For, quindi facciamolo lo spelling lentamente, No Heroes to Die For. Ci trovate anche su Reverbnation, SoundCloud, Last.fm, e potete scaricare liberamente tutte le tracce appunto presenti nei siti. Perfetto, e naturalmente metteremo anche il link della vostra pagina Facebook sul nostro, sulla nostra pagina Caffè Doppio Roar. E vorrei salutarvi qua, perché ormai siamo arrivati agli sgoccioli di questa trasmissione, chiedendovi i vostri propositi per i prossimi giorni e per... I nostri propositi sono chiaramente suonare il più possibile, sperando che appunto alla gente piaccia questa musica, e niente, continuare così per me rock and roll. Cioè, va benissimo, già è un ottimo proposito, cioè continuare così, portare avanti quello che penso, quello che voglio suonare, che è un ottimo proposito, è forse la cosa migliore che sì, puoi dire fare, dire tutto ciò che vogliamo, sì, senza, perché cioè, secondo noi chiunque, esattamente, chiunque mette le proprie idee in musica è sempre musica, cioè può essere bella o brutta, ma è sempre musica. Finché ricordiamo la che la musica originale è musica, quindi cioè, noi vogliamo continuare a scrivere musica, prima principalmente per noi stessi, poi per il resto, cioè, e poi se arriva anche succede a un pubblico, allora sarà, certo, ovviamente veramente molto molto dei sensi, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamo rock and roll, there's no rules in rock and roll. Per questo che stiamo dentro il rock. Ci consente di fare quello che vogliamo, come ci pare. Ecco, questo è importante. Anche perché magari con altri generi non, cioè, ci stanno dei vincoli, diciamo, delle cose. Non saremo riusciti comunque, ecco, a esprimere quello che abbiamo, cioè tutto ciò che abbiamo in testa. Quindi, cioè, come dicevamo all'inizio, facciamo questo nonostante tutte le difficoltà, consapevoli di tutte le difficoltà, lo facciamo perché ci piace e crediamo in questo progetto. Quindi No Heroes to Die For, seguiteci. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti gli squilletti che sono arrivati. Sì, sono arrivati parecchi squilli. Telefonate minatorie. Fortunatamente non hanno mai risposto, quindi cioè, sono solo squilletti intimidatori. Forse ci volevano far uscire dalla ci sala. Ci stanno aspettando sotto. Sì, sì, sì. Invece secondo me sono veramente squilletti di apprezzamento. E speriamo, speriamo. Noi vi ringraziamo, grazie a Radio Onda Rossa, grazie a David. E ricordiamo un saluto particolare a Tameto, l'altro DJ che in questo momento... Come no, assolutamente sì. Ciao, grande Tameto. A presto. Che sarà in un albergo a sbronzarsi. Maledetto. Maledetto. Invece non è freddo al gelo. Ecco, appunto, una giornata di pioggia qua a Roma. Lui, l'unica giornata di pioggia, se l'è saltata perché è andata a Monaco. Vabbè, un saluto a lui. E ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, una radio senza padroni né sponsor. Quindi se volete aiutare la radio sovvenzionandola, mandate al conto corrente postale 61804001 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Il nostro telefono è 06 49 1750 e per qualsiasi domanda, richiesta o voglia di informazione mandateci una mail a ondarossa@ondarossa.info. Questa è la fine di Caffè Doppio, non la fine per sempre, però la fine di questa, la fine di questa puntata. La fine di questa dopo puntata. Dopo che abbiamo suonato noi finisce tutto. È proprio la fine. È la fine. Ci cacceranno, non è vero, non ci cacceranno. Ringraziamo nuovamente lo staff, la redazione di Radio Onda Rossa, appunto, che è una radio che permette alla musica emergente di esprimersi, e noi la ringraziamo veramente di cuore. Grazie a tutti gli ascoltatori e grazie alla radio, grazie a David. E grazie a Tameto anche, che non c'è, però ci sta seguendo. No, l'odio. No, no, no. Ah, ok. Non ti salutiamo, Tameto. Addio. Questa alle 17:55 minuti si chiude la puntata di Caffè Doppio. Ciao, a domenica prossima. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè